Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Buongiorno, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è come sempre il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Sempre in diretta, in questo momento sono le 15.00 e 43 secondi a Radio 24, due ore insieme, poi la terza ora sempre insieme, sempre in diretta con Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete con il nostro RadioTube. Per tenerci compagnia il numero per i vostri SMS e WhatsApp 349-238-6666, 349-238-6666, ma c'è anche il mio account di Twitter @MartaCagnola, l'hashtag cancelletto ISDV, ma tanto basta che menzionate me e io vi trovo subito su Twitter. Ma intanto scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo insieme di queste tre del sabato del villaggio. L'appuntamento con il gastronauta, sarà con noi come sempre Davide Paolini, la tendenza sarà mangiare al museo, poi andremo nella mia adorata Valtellina. Con Enrico Pagliarini parliamo di novità in fatto di smartphone e non solo, poi ovviamente parleremo anche molto delle novità in sala. Iniziamo proprio con il cinema. Tu conosci il robot d'acciaio? Chi? Ma che pure te c'ha la spada lata? La spada chi? Io voglio fare botto. Voglio che la gente si piega a pecoroni quando mi incontra per salutarmi. Famo tre carichi così entriamo dentro al giro grosso. Cinci. Cicin. Ma come te non ti frega proprio un cazzo di niente? Non sono amico di nessuno. Basta cazzo. Ma basta! Corri ragazzo laggiù, vola tra lampi di blu. Di tutta la gente dell'umanità, corri e va per la terra, vola e va tra le stelle, tu che puoi diventare Gigba. Cuore acciaio, Gigba. Esce questo fine settimana al cinema un film che io ho amato moltissimo, lo chiamavano Gigrobo, il protagonista che canta anche questa versione molto singolare della sigla del cartone animato Gigrobo d'acciaio è Claudio Santamaria. Questo sabato del villaggio sarà molto caratterizzato dalla presenza dei supereroi, ma anche dei fumetti, delle graphic novel, dell'animazione. Ci terranno compagnia un po' come fil rouge, come filo conduttore del nostro sabato del villaggio. Animazione, supereroi, io so che c'è un appassionato di questi temi e non solo, noi lo chiamiamo spesso per parlare di videogiochi, ma lui è un po' un supereroe da solo, lui è un po' un supereroe. Ci colleghiamo subito con Emilio Cozzi, ciao Emilio. Ciao Marta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Quindi grandi responsabilità derivano da grandi superpoteri, come diceva. Esatto, vedi che ci siamo capiti subito. Cosa rappresentano i supereroi, in particolare questo nel nostro immaginario, soprattutto noi che siamo di quella generazione tra i 30, 35, 40, 45, quelli che sono nati in questo modo, in questo mondo? Ma è una bella domanda, in realtà credo che sia uno dei, la risposta è uno dei motivi per cui adesso i cinecomics sono uno dei generi più battuti dalla cinematografia internazionale. Tu pensa che da qui in poi, entro il 2020, usciranno altri 25 film basati in qualche modo su fumetti, soprattutto su fumetti in cui ci siano supereroi. Cioè 25 film, esatto. Poi 2020 sembra lontanissimo, no? Perché sono tre stagioni. Solo quest'anno, compreso Deadpool, che è appunto uscito l'altro ieri, saranno 7, cioè ci saranno 7 film dedicati in qualche modo, legati in qualche modo a saghe appunto di fumetti superomistici. E per rispondere alla tua domanda, credo che in qualche modo per la nostra generazione e anche magari quella appena prima, che peraltro è quella che cresce i registi che questi film adesso li stanno realizzando, certo. I supereroi sono un po' come i dei dell'Olimpo classici, cioè sono divinità appunto evidentemente sovrumane che in qualche modo cristallizzano cosa che è sempre stata, non solo i grandi temi che come dire ci costringono a riflettere su noi stessi, ma anche i grandi sogni, le cose che non raggiungeremo mai, appunto, sono una sorta di semidei. Curioso è che negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, questi supereroi non solo come nel passato abbiano appunto superpoteri, ma anche super problemi. Pensate solo a Spider-Man. Ebbene, o a tutta sì. quella frangia, esatto, di nuovi supereroi, chiamiamoli così. Allora, Emilio, a questo proposito ti farei proprio sentire un frammento dell'intervista che abbiamo realizzato con Claudio Santamaria. Vi dico subito, la sentiremo in versione integrale domattina, 140 caratteri, dopo il giornale radio delle 8, come dico sempre io da anni, visto che va in onda sempre alla stessa ora, dopo il giornale radio delle 8 in 140 caratteri, Claudio Santamaria, un supereroe molto particolare e molto umano, eccolo qua. Un tema del genere come i supereroi, i superpoteri, la responsabilità in Italia primo è che insomma è stato fatto quasi niente sull'argomento, no? È stato il film di Salvatores che parla del ragazzo invisibile, ma è un terreno minato in Italia perché nessuno l'ha mai fatto, appunto come diceva Gabriele prima, ha avuto molta difficoltà a trovare un produttore che ci credesse e quindi come dire sì, affronti qualcosa di un terreno assolutamente minato, però sono gasato quando poi ho visto il film completo degli effetti, dico ammazza che bello, che figata, cioè è bello più farlo, è molto faticoso, è bello avere a che fare appunto con questi, con gli effetti degli stunt, sollevare un tipo di 180 kg mentre in realtà sono 4 stunt che lo tirano su con delle carrucole, però poi il vero divertimento è vederlo realizzato. E questo era Claudio Santamaria, il Gabriele a cui si riferiva era ovviamente Gabriele Mainetti, che è il regista, questo giovane, giovanissimo, 1976, quindi quarantenne, che per un regista italiano è praticamente dire un bambino piccolo, che ha fatto molta fatica a far capire ai produttori italiani che voleva fare un film di supereroi. Tra l'altro un film, io non so se l'hai già visto perché è uscito giovedì sera, che fa ridere, fa piangere, ed guarda, è il supereroe appunto molto problematico. L'ho visto e tornerò a rivederlo perché è un anch'io film che l'ho visto rivisto. Due volte, esatto. Anch'io, guarda, l'avevo visto al Festival di Roma e sono andata ieri sera in sala a rivederlo, va visto e rivisto, hai ragione Emilio. Dici bene, venne presentato appunto all'ultimo Festival di Roma, dove è già riscosso un incredibile successo, ovviamente di critica, cosa come dice anche Santamaria nell'intervista, se ci pensate, per l'Italia più unica che rara, tanto che già più di un critico sta parlando di una nuova era del cinema in Italia, e da qui si potrebbero menzionare, oltre a Mainetti, tantissimi altri registi, Fabio, ma ce ne sono tantissimi altri che per la prima volta tenteranno strade davvero non percorse di frequente nel cinema italiano. Qui si parla di un supereroe che in realtà è uno scapestrato, un mezzo delinquentello, non voglio rovinare il film a nessuno, che una bella mattina a Tor Bella Monaca, periferia di Roma, scopre di avere appunto qualche, come dire, straordinario potere e fa delle cose che in realtà farebbe esattamente qualcuno che in quelle condizioni si trovasse, che probabilmente non sarebbe salvare il mondo, come ci hanno sempre insegnato. E da lì nasce il film, che è superbo, e io dico ben scritto, ben sceneggiato, ma soprattutto recitato benissimo, non solo da Santamaria, cosa che un pochino sapevamo, ma da Luca Marinelli e da Ilenia, che Ilenia è Pastorelli, sono, che è commovente, sì, splendido. E il film appunto, come dire, è una versione di questo tipo di sottogenere cinematografico all'italiana, nel senso più bello del termine, perché tocca delle corde intime che fanno molto parte del nostro cinema, pur affrontando un genere che non fa per nulla parte del nostro cinema, che è quello proprio dei supereroi. Non solo è altamente credibile, ed è uno degli obiettivi che appunto Mainetti aveva nel dirigerlo, cioè calare una realtà che non ci appartiene in un contesto che è quello poi di Roma, che conosciamo molto bene anche non abitando nella capitale, insomma. Sì, devo dire che ci sono tanti aspetti che avvicinano lo stesso, lo chiamavano Gigrobo con Deadpool, cioè sono, io stavo leggendo questa mattina un post di Carlo Fariciotti sul sito Showbiz News e mi piaceva questa equazione: Deadpool sta ai film della Marvel Disney come lo chiamavano Gigrobo sta al ragazzo invisibile di Salvatores. I secondi sono prodotti ben fatti, i primi sono sono slabbrati vitalistici innovativi, cioè magari meno puliti, meno tecnicamente, però più vivi, più veri, più vibranti. Assolutamente vero, per chi appunto non lo conoscesse, Deadpool, che è uscito in sala anche lui giovedì, è, per farla molto breve, il primo film della Marvel vietato ai minori. Questo vi fa capire che è un supereroe, esatto, sui generis, un supereroe che, punto primo, come nel fumetto originale da cui è tratto, si rivolge direttamente agli spettatori, quindi fa calare quella che i critici francesi chiamavano la quarta parete, cioè tira in ballo, evoca immediatamente il fatto di essere un film, il fatto di essere un fumetto sulle pagine, e il fatto di prendersi proprio per questo motivo anche estremamente poco sul serio. È, come dire, quasi un'autoparodia del genere a cui si riferisce. È poi politicamente scorrettissimo, appunto da qui nasce il divieto. Piccolo particolare è il film al lancio nel primo weekend Marvel in più di un paese, credo almeno una ventina, con il più alto incasso nel primo weekend, e questo dice tantissimo di come questo film potrebbe far parlare di sé anche in futuro e come in qualche modo potrebbe influenzare la produzione della Marvel, che da qui in poi sarà appunto, come dicevo prima, ricchissima. Lo chiamavano Gigrobò, fa lo stesso mestiere, cioè in qualche modo è una piccola eversione, forse neanche tanto piccola, perché ripeto, evoca un cinema che non ci appartiene, con degli strumenti che invece ci appartengono tantissimo, quelli per esempio dell'analisi vera del personaggio e della sua psicologia. Io credo che lo chiamavano Gigrobò, una delle cose migliori sia una sublime storia d'amore, che detta così è già a banalizzarla, o meglio ancora sia la scoperta dell'altro, che credo sia, esatto, il vero tema del sì, film. Sì, sì, sì. E io che l'ho visto e rivisto, assicuro agli ascoltatori che non stiamo svelando niente del tanto che c'è in questo film. Ti chiedo un'ultima cosa, poi anticipo agli ascoltatori che nella seconda ora parleremo ancora di Marvel, ancora di supereroi, per quanto riguarda in particolare l'animazione. Però, visto che hai citato Marvel, Marvel è diventata un grandissimo serbatoio anche di serie TV, sembra un serbatoio inesauribile. Sì, guarda, tocchi un tema verissimo. Anzitutto ricordiamolo, Marvel, come tante altre cose, è di proprietà di Disney, e questo non va mai dimenticato. Detto questo, c'è anche un lato, se vuoi, un rovescio della medaglia che da forte appassionato vorrei buttare sul piatto. È d'altra parte una sindrome abbastanza, se vuoi, preoccupante, quella del reboot, del prequel, del sequel, o comunque dell'adattamento di qualcosa che già esiste. Perché se ci pensi, una statistica molto, molto eloquente è questa: oggi il 66% di tutti gli incassi del mondo nel cinema derivano dal 21% delle produzioni, che sono esattamente quelle che si rifanno a franchise già esistenti. Detto in un'altra parola, si innova, si inventa molto poco, perché si preferisce investire sul sicuro. Sì, sul sicuro, c'è la promozione, esatto, già fatta, il pubblico già conosce le storie, è comodo. Esattamente. Proprio anche per questo, devo essere sincero, un applauso anche duplice va sia a Deadpool, che è appunto della Marvel, sia, lo chiamavano Gigrobò, ripeto, sono due piccolissime rivoluzioni, ognuna nel proprio campo, e questo per me è veramente salutare, come dicevi prima tu, come evocavi prima tu, assolutamente vitalistico. Emilio, ti chiedo un'ultima cosa, io ti ho introdotto come supereroe, ma il tuo supereroe di riferimento qual è? Devo essere onesto, un supereroe di cui scrissi parlandone molto male, perché lo reputo un mentecatto, e proprio per questo mi piace tantissimo. Cioè Batman. Anche a me piace tanto Batman, esatto. Sì. Perché Batman, che peraltro tecnicamente direbbero i duri e puri, non è un supereroe, perché non ha alcun superpotere, se non quello di essere infinitamente ricco e appunto infinitamente pazzo. Se voi pensate, Batman, e infatti tantissimi autori poi ne hanno esplorato questo lato, è un borderline, è quasi al limite della schizofrenia, è un uomo ossessionato dalla vendetta, un uomo che ha tutto, è miliardario, è famoso, è ricchissimo, eppure di notte si mette dei mutandoni di Kevlar e va a menare la gente. Insomma, è uno abbastanza, con dei problemi abbastanza evidenti, ma proprio per questo mi intriga tantissimo, devo essere onesto. Sottoscrivo anch'io, Batman e Ralph Supermaxi Eroe, mi piace eccezionale. Ma tu sai che c'è in ballo una riduzione cinematografica della serie eccezionale che ha appena evocato, e da anni però se ne sa ben poco. Io spero che appunto arrivi al più presto questo supereroe che non sapeva usare i propri superpoteri perché aveva smarrito il libretto di istruzioni, un'intuizione eccezionale. Favoloso. Grazie a Emilio Cozzi per essere stato con noi. Io ricordo il tuo account di Twitter e la citazione "chi la coglie la coglie", facciamo sempre così, @addio e grazie per... e così lo trovate anche su Twitter. Grazie Emilio Cozzi, a presto! A voi, a te Marta, ciao, a presto! Ci ritroviamo tra poco! Il sabato del villaggio. Questa era la colonna sonora di Una notte al museo, perché stiamo per andare al museo, ma non per vedere i quadri, le statue, no, andiamo al museo a mangiare? Non lo so, credo di aver capito così, lo chiediamo subito al nostro gastronauta Davide Paolini. Buongiorno Davide. E come, perché questa tendenza si sta incrementando giorno per giorno anche in Italia, non solo all'estero, dove ci sono stati da anni degli esempi importanti. Al Guggenheim di Bilbao, ad esempio, c'è un cuoco bistellato, al MoMA di New York c'è Danny Meyer, che è uno dei cuochi più famosi degli Stati Uniti e di New York. Quindi diciamo che è partita forse dall'estero, ma ci sono tanti altri casi, anche a Barcellona, ma anche a Amsterdam. Però arriviamo in Italia perché devo dire che negli ultimi anni si è recuperato probabilmente il terreno che si era perso. E allora io voglio cominciare da un museo e dal ristorante dentro questo museo che amo molto, ed è a Varese, a Villa Panza. Villa Panza c'è un ristorante che si chiama Luce, io dico sempre Fiat Lux, perché Matteo Pisciotta, secondo me, è uno dei cuochi più illuminati che ci siano, però non viene tenuto in alta considerazione come tanti altri. Io lo trovo veramente molto, ma molto bravo, sia nel combinare i prodotti del territorio, ma dargli anche questo pizzico di creatività. A parte che d'estate si può mangiare in quello splendido parco, che è veramente, veramente un sogno, e soprattutto d'estate c'è questo brunch della domenica a mezzogiorno, dove i bambini possono scorrazzare per delle ore. Arte contemporanea, che male non fa, e vediamo anche qualcosa di bello. Esattamente, ecco, questo è il punto, che in questi luoghi di cui parliamo è bellissimo, perché magari qualche volta sono anche un po' decentrati, e quindi tu puoi vederti la tua mostra, farti la tua oretta e mezzo di mostra, e poi ti puoi sedere a tavola. Devo dire che questo ristorante Luce ha una cosa bellissima, perché sopra la cucina c'è una piattaforma di vetro dove si può mangiare, e quindi si vedono tutti i movimenti dell'equipe di Matteo Pisciotta, che è molto, ma molto giovane, e quindi devo dire che è anche molto divertente da questo punto di vista. E poi vale la pena anche di visitare l'orto, perché anche l'orto è qualcosa di splendido. Sempre Matteo Pisciotta gestisce il ristorante della Bicocca. Anche questo, diciamo che dal punto di vista della cucina è molto più easy, molto, molto più semplice, però c'è sempre la mano di questo chef, che probabilmente si vede che ha sposato l'arte per portare avanti, per andare appunto a tenere le cucine nei ristoranti dei musei. E quindi proseguiamo perché non ci fermiamo a questi due iniziali. Andiamo a Lucca, anche a Lucca, al Lucca Center Contemporary Art, c'è un ristorante, L'Imbuto, tenuto da un chef, anche questo è emergente, uno chef molto creativo, molto artista. Forse si vede che, stando dentro a un museo, probabilmente la vena gli è aumentata, che si chiama Cristiano Tomei, e ci sono certi suoi piatti veramente che sono delle provocazioni, come succede magari nei musei di arte modernissima, e quindi ha sposato bene questa idea del museo. Milano? Mm-hmm. da poco tempo, perché la terrazza della Triennale risale all'inizio dell'Expo. Diciamo che è un posto bellissimo, cioè questa terrazza veramente si domina una parte di Milano, che molti dicono che non sia la parte più più amena, ma io devo dire che si vede una Milano che magari non tutti vanno a visitare. E qui anche c'è una cucina che è stata trasportata dalla zona di Erbusco, quindi diciamo dalla Franciacorta, una cucina di un cuoco che ha un ristorante sia in Franciacorta sia in questa terrazza appunto della Triennale. E poi ancora proseguiamo e andiamo a Roma. A Roma andiamo al Palazzo delle Esposizioni. Ah, questo è il primo in cui sono stata. Oh, finalmente uno che ho visitato io per prima. Dove c'è l'Open Colonna. Antonello Colonna. Antonello Colonna è un personaggio della ristorazione romana molto conosciuto, e lui ormai è da anni che è in questo locale, quindi un altro sicuramente molto molto importante. Poi andiamo in Piemonte, andiamo nelle vicinanze di Torino e andiamo a Rivoli al famoso Museo d'Arte Contemporanea. Bene, qui c'è uno, se vogliamo, dei principi della cucina italiana, al Combal .0 c'è Davide Scabin. Uh-huh. Anche Scabin, guarda caso, ha questa vena molto molto creativa, è noto appunto per le sue creazioni, è noto anche per anni fa di aver così consegnato alla fine del pasto, consegnava ai suoi ospiti un palloncino che bisognava aspirare, c'era Elio e tu facevi il discorso di Paperino, perché certo, la tua voce veniva fuori una voce di Paperino, e c'era una motivazione, perché lui dice che a tavola bisogna sempre uscire contenti ed essere, diciamo, sorridere. Quindi anche questo è un altro dei luoghi dove si mangia in Italia al ristorante di un museo. Bene, io credo che ne stanno sorgendo anche altri, perché ormai è diventata una tendenza, ma è diventato forse anche, come posso dire, un modo interessante, ad esempio, di passare una domenica e quindi sposare l'arte con la cucina. In fondo io dico sempre che il cibo è arte, quindi in questo caso si sposa veramente molto ma molto bene. Davide, siamo pronti per il viaggio? Perché siccome andiamo in un posto che io, in una zona che io amo moltissimo, per ragioni autobiografiche, partiamo? Sì, partiamo, andiamo subito, andiamo in Valtellina. Ah. E stavolta la tengo distinta dalla Valchiavenna, perché poi la Valchiavenna, visto che siamo in periodo invernale, la teniamo per un altro sabato. Bene. Allora, saliamo immediatamente a Bormio. Andiamo a Bormio, poi magari tornando indietro ci fermeremo anche a Bormio. Mm-mm. A Bormio diciamo ci sono varie tipologie di ristorante. C'è il ristorante, se vogliamo, gourmet, c'è il ristorante che continua la tradizione e c'è il ristorante direttamente nella pista da sci. Più di così cosa si vuole. Allora cominciamo dal Eden Hotel Umami di Bormio. E qui c'è un cuoco di cucina napoletana, di origine napoletana, è molto interessante perché ha riportato alcuni frutti della sua cultura napoletana, campana, nei prodotti appunto della Valtellina. E allora questo locale, che tra l'altro è molto bello, è un bed and breakfast appunto con questo ristorante, disegnato da un architetto famoso tra l'altro. Lui appunto offre un melting pot fra cucina e prodotti della sua terra con quelli valtenisesi. Ad esempio le linguine di Gragnano vengono trasformate in una carbonara, ma con la bresaola e la polvere di porcini. Insomma, qui c'è un gioco appunto di fare una carbonara valtellinese. E poi ancora un ragù che lui prepara è un mix tra capriolo, bitto e carcadè. Quindi invece di fare il ragù tipico bolognese, lui riesce appunto col capriolo e il bitto, che magari li consideriamo territoriali, in questa maniera. Per chi non lo conoscesse, il bitto è uno dei formaggi più buoni del mondo, ma io l'ho detto, sono un po' di parte. No, io sono d'accordo con te sul bitto e ti dirò che io il bitto lo amo molto stagionato. C'è chi lo preferisce fresco, poi è molto bello perché il bitto c'è una diatriba tra i produttori, diciamo, del consorzio e altri che si ritengono storici, quindi è molto bello quando tu combatti per difendere un prodotto, quindi bisogna ricordare anche questo. Comunque il bitto di Malga è straordinario. Io sono andato una volta a vedere appunto le malghe in piena stagione, devo dire che è un viaggio affascinante che consiglio proprio in questa zona. dicevo, non possono mancare gli Shat. Certo. E gli Shat però sono di Baccarat in questo caso. Quindi in maniera completamente diversa, originale. Il pizzocchero, anche questo, è diverso perché è sferico e il grano saraceno è croccante. Quindi abbiamo appunto delle interpretazioni territoriali completamente diverse che fanno molto bene, insomma. Chi invece è un appassionato sciatore e vuole combinare, abbiamo visto che combiniamo l'arte con il cibo, qui combiniamo lo sci direttamente con la cucina. Allora c'è Baita de Mario alla località Ciuc, appunto, dove si entra direttamente nelle piste da sci. Qui c'è una cucina tradizionale valtellinese, si possono mangiare gli sciat, i pizzoccheri, salmi di capriolo con polenta, ovviamente la polenta ce n'è tanta, le costolette di cerro con i mirtilli, e poi è uso in montagna, non solo qui, di fare tante torte fatte in casa, e qui anche qui ci si può veramente sbizzarrire. Poi andiamo sempre nel centro di Bormio, a questo punto, nel centro storico, in un vecchio fienile, proprio nel centro, quindi un vecchio fienile storico con una stalla che è stata ovviamente ristrutturata, e c'è questo ristorante che si chiama Al Filò. Mm-hmm. Qui c'è una cosa molto divertente da poter mangiare, c'è la grigliata bastonata. Uno direbbe, no, non è che ti bastonano, appunto, assolutamente. Ma saperlo prima di consigliarlo alle persone, ecco, cosa, esattamente, di cosa allora gli diciamo cos'è. Sono tre tipi di carne arrotolata in un bastone e cotta sulla brace, quindi qui non si usa né coltello né forchetta, si come le panocchie, si mettono direttamente in bocca e si mangia come si mangia uno spiedino. E poi ancora qui c'è il maialino in porchetta, si può mangiare, oppure come primo piatto un risotto con purea di mirtilli e gelato al gorgonzola, quindi un piatto questo creativo, con questo tocco di gelato al gorgonzola, ovviamente per allentare un po', diciamo, di mettere il gorgonzola con il risotto, la purea di mirtilli diventerebbe pesante, qui c'è un gelato. Ho detto che ci fermavamo anche a Morbegno. Allora, a Morbegno c'è l'Osteria del Crotto. L'Osteria, certo, del Crotto, appunto, cos'è? Cosa si mangia? Come antipasto qui si mangia il violino di capra. Allora permettimi di fare una parentesi sul violino di capra, perché è un prodotto che io amo. Tra l'altro ho una mia foto che è diventata storica. Ogni volta qualcuno mi pubblica qualcosa mi mette sempre questo violino. La vado a cercare in rete. Il violino non si suona, non è uno strumento musicale. Ecco, se tu lo vai a vedere troverai che io ho in mano un violino di capra, uh-huh, e al posto invece del coltello ho, diciamo, lo strumento con cui si suona il violino. Ho fatto questo scambio perché ritengo che il violino di capra sia un fatto artistico, quindi combinato al violino. Il violino di capra è raro, diciamo che ci sono anche molte ciofeche, però chi lo trovasse buono, secondo me, è un prodotto veramente da assaggiare, anche perché è divertente nel vedere come si taglia. E qui cosa si mangia in questo crotto? Si mangia lo strudel di grano saraceno, si mangiano altri salumi, lo strudel con fonduta di bitto e verdure, non dolce, oppure anche, diciamo, diversi piatti di carne e formaggi con la polenta. E poi bisognerebbe citare i grandi vini della Valtellina, a cominciare dalla Sfulzat, l'Inferno e tanti altri, il Grumello, quindi devo dire che in questo momento c'è stata una crescita veramente notevolissima dei vini di questa terra, e quindi vale la pena assolutamente di assaggiarli e di fare un viaggio, specialmente chi scia in inverno, ma anche d'estate si possono fare delle ottime passeggiate mangiando bene. Citiamo anche Valtellina e Valgella, così li abbiamo citati tutti. Grazie al nostro gastronauta per essere stato con noi. Al prossimo sabato. Ciao, ciao. Grazie Davide anche di avermi portato nella mia amata Valtellina. Ci ritroviamo tra pochissimo, perché invece andiamo a trovare chissà dov'è Enrico Pagliarini. Il sabato del villaggio. E ve l'ho detto che ci saremmo preparati ad accogliere Enrico Pagliarini, che chissà da quale parte del mondo mai collegato con noi, ma io voglio accoglierlo con questa canzone. E al passo con noi è l'ispettore Gadget, che sbaglia ma poi con i suoi gadget è il più in gamba dei suoi. E siccome parliamo molto di supereroi, anche di fumetti, di cartoni animati, di graphic novel, lo abbiamo fatto parlando di Gig Robot e del film Lo chiamavano Gig Robot, l'abbiamo fatto con il grandissimo Emilio Cozzi, che è stato con noi all'inizio del Sabato del Villaggio. Beh, da un supereroe all'altro, a me è venuto in mente, anzi è venuto in mente a Christian Goldoni, l'ispettore Gadget, perché è un po' il nostro ispettore Gadget, Enrico Pagliarini. Ciao Enrico. Buongiorno. Perché, ma esiste l'ispettore Gadget? Sì, era un cartone animato. Quando non ci arrivava lui, perché non era proprio questo supereroe, questo detective, così, aveva il gadget giusto. Era un po' una sorta di MacGyver dei cartoni animati, in maniera un po' così rocambolesca. Tu, se non arrivi coi tuoi superpoteri, hai sempre il gadget elettronico da suggerirci. Esattamente, esattamente. Ecco, intanto come va il raffreddore? Stai un po' meglio che in questi giorni eri malato? Dopo gli spruzzi sì. Perché c'era Enrico che si spruzzava, faceva spruzzo di tutto in redazione. Senti Enrico, non divaghiamo e andiamo a parlare di diavolerie elettroniche nuove, perché sei andato a scoprire delle novità per noi in questi giorni. Ho sentito che ci sono delle cose nuove. Sì, ci sono delle cose nuove. Vuoi che partiamo dalla realtà virtuale o vuoi che parliamo di smartphone? Ma non so, scegli tu, da dove partiamo? Beh, allora possiamo partire dagli smartphone. Allora, questa settimana c'è stato il Mobile World Congress a Barcellona, una delle grandi fiere di tecnologia specializzata in mobilità, e oramai non si può più solo dire telefonia mobile, anche se effettivamente gli smartphone rimangono sempre un po' al centro dell'attenzione. Ci sono state alcune novità, nulla di eclatante, però qualche cosa per cercare di trovare soluzioni innovative le aziende l'hanno fatta. Allora, stiamo parlando di Android, perché storicamente Apple con iOS, con gli iPhone, non si presenta al Mobile World Congress, fa eventi per i fatti propri, e a Barcellona i riflettori sono stati puntati soprattutto su LG e su Samsung. Samsung è il più grande produttore di smartphone al mondo, il secondo è Apple. LG ha una quota di mercato abbastanza piccola nel mondo Android, perché ultimamente nelle classifiche sono saliti molto i marchi cinesi come Huawei, come Xiaomi, e quindi LG non è importantissimo, però devo dire che dal punto di vista innovativo LG ha presentato forse le cose più interessanti. Allora, che cosa ha presentato? Il nuovo G5, che uscirà sul mercato a breve, tra poche settimane, anche in Italia. E forse la novità più interessante e curiosa è che negli ultimi anni abbiamo visto uno spostamento dalle scocche in plastica, e con le scocche in plastica si poteva cambiare la batteria molto agevolmente, a scocche in alluminio chiuse, così come aveva fatto iPhone già qualche anno fa. In questo modo quasi tutti i produttori non permettono ancora oggi di cambiare, certo, la batteria, e questo effettivamente è un problema, perché dopo qualche anno la batteria, è vero, dopo qualche anno alcuni cambiano addirittura lo smartphone, però se uno vuole tenere lo smartphone e la batteria non è più performante, uno potrebbe voler cambiare solo la batteria, e questo non è possibile. Allora invece LG ha presentato un prodotto, questo G5 nuovo, che ha nella parte inferiore della scocca un pezzetto removibile, lo si stacca e si può estrarre e quindi eventualmente cambiare la batteria. Sai cosa c'è? Io mi ricordo che i primi anni, quando tutti avevamo tutti o il Nokia o il Motorola, avevamo spesso, le signorine perlomeno in borsa, avevamo la batteria di riserva. Adesso dobbiamo avere tante le batterie esterne, ma abbiamo sempre avuto la batteria esterna, la batteria di riserva, insomma. Certo, però LG non ha fatto questa novità solo per la batteria. Ha fatto questa novità perché togliendo questa parte inferiore dello smartphone si possono agganciare o inserire degli accessori. Ne cito uno oppure due, giusto per fare un esempio. Allora, il primo, semplicissimo, anche se non è che mi entusiasma moltissimo, è che questa parte inferiore, con un accessorio particolare prodotto assieme a Bang & Olufsen, diventa uno speaker, quindi una, chiamiamola per semplicità, un diffusore audio un po' più potente rispetto a quello classico che c'è in fondo agli smartphone. Non è che si risolva, però se uno è fuori all'esterno, che ne so, in spiaggia, potrebbe sentire un pochettino meglio. Il secondo esempio è una batteria molto più che più o meno raddoppia la capacità della batteria, che sporge dal telefono, si inserisce in questo slot, ma sporge anche dal telefono e funziona un po' da impugnatura, con anche un comando per lo zoom della fotocamera, se uno vuole utilizzare lo smartphone come fotocamera, ma impugnandolo molto meglio rispetto a come si può impugnare senza. Questi sono esempi, poi ci sono tanti altri accessori e sostanzialmente LG dice io voglio proporre ai consumatori una serie di accessori da agganciare allo smartphone. Funzionerà, non funzionerà, non lo sappiamo. Lo scopriremo solo vivendo, come solo cantava vivendo. Il poeta. Esattamente. Samsung ha presentato sostanzialmente una leggera evoluzione dell'S6, sono stati presentati i due S7, quello normale e l'Edge, che è caratterizzato da questo design con il display, con gli angoli smussati, con i bordi smussati. Non ci sono tantissime novità, nel senso che design e caratteristiche sono sostanzialmente le stesse. Uscirà a breve sul mercato anche questo prodotto. È stata molto conservativa, un po' come succede negli ultimi anni nel mondo della telefonia mobile. E poi ci sono una serie infinita di altri prodotti Android. Ma ti posso fare subito una domanda? Tu lo sai che domanda ti sto per fare, perché te l'ho già fatta, ma te la faccio anche in onda, perché è la cosa che mi ha chiesto il mio amico Alessandro, che deve cambiarsi il telefonino, ma credo che sia la cosa che si chiedano anche molti ascoltatori. Adesso che esce, ti faccio l'esempio del Samsung, perché l'ultimo che mi hai appena fatto, ora che esce il Samsung 7, vale la pena comprarsi il Samsung 7 o dire adesso che è uscito il 7 costano meno gli altri? Ah sì, potrebbe essere una scelta comprare il 6, visto che molto probabilmente i prezzi si abbasseranno, ma devo dire si abbasseranno anche perché Samsung sta soffrendo, i concorrenti principali di Samsung sono i cinesi nell'area Android, quindi la concorrenza è molto forte, con prodotti che hanno caratteristiche abbastanza simili, a prezzi molto concorrenziali, quindi sicuramente Samsung deve reagire a questa concorrenza dei produttori cinesi, Huawei in primis, ma anche altri, e quindi la dinamica dei prezzi è destinata a salire. Sta succedendo quello che è successo anche in altri mercati, dove una fortissima concorrenza dei cinesi sta facendo pressione alle aziende coreane. Rimane da solo in un limbo molto felice, perché le vendite finora dimostrano che i consumatori apprezzano molto iPhone con Apple, che riesce a mantenere prezzi molto molto elevati, perché i consumatori continuano a spendere soldi ma qui stiamo parlando per di un altro mondo. Per uno status symbol forse. Ma devo dire che per molti versi anche le funzionalità e l'usabilità di iPhone e di iOS, seppur le distanze si siano molto ravvicinate con Android, però per alcune cose sono ancora migliori. Devo anche dire che molti sviluppatori continuano a far uscire le applicazioni, quando non vengono fatte uscire le applicazioni per entrambi i sistemi operativi, il primo che viene scelto nel 90% dei casi è ancora iOS. E quindi capita a volte che l'applicazione esiste solo per iOS, magari per poche settimane, ma ancora così. Poi potremmo discutere anche di sicurezza. La scorsa settimana avevamo cominciato a parlare del caso Apple, che era molto particolare si è risolto. Siamo ancora in fasi difficili. Assolutamente, però questo dimostra che almeno in questa fase, per come è stato pensato il prodotto, iOS è più robusto rispetto ad Android, che è più aperto, più flessibile, bla bla bla, però in questo specifico caso, se parliamo di capacità delle forze dell'ordine di introdursi, però non solo forze dell'ordine, anche qualche hacker malintenzionato, iPhone dimostra di avere capacità di protezione maggiore. Quindi per alcune cose non so se dire che è ancora uno status symbol, non so se i consumatori sono ancora legati, è un po' passato l'effetto, almeno molti esperti, molti ricercatori dicono che è un po' passato l'effetto status symbol dello smartphone. Comprano lo smartphone, è un oggetto che dobbiamo avere, ma non c'è più quell'emozione, quella follia che abbiamo vissuto dal 2007-2008 fino allo scorso anno, fino al 2014. Ecco. Enrico, ti chiedo una cosa, ti faccio fare i compiti, ti devi informare, perché ci chiede Isabel al 349-238-6666 se ci sono nuovi smartphone con due SIM per chi ha bisogno di una lavoro e una privata. Quindi studia e facci sapere se ci sono dei dual SIM. Posso rispondere? Sì, ci sono, sì, sul mercato ci sono un sacco di dual SIM. Francamente anche qui, sì, è vero, ci sono queste esigenze, come ci ha espresso la nostra ascoltatrice, però mi sembra che anche qui la moda dei dual SIM sia un po' passata. Devo anche dire che verso la fine dell'anno, o comunque nel prossimo anno, certo uno dice se io ho l'esigenza oggi mica posso aspettare un anno, però giusto per darvi un'idea di dove stiamo andando, cominceranno a uscire i primi prodotti, i primi smartphone con la eSIM. Che cos'è la eSIM? È un chip integrato nello smartphone che fa scomparire la SIM. E noi andiamo ad acquistare il nostro smartphone, chiamiamo l'operatore oppure entriamo nel negozio e abilitiamo un profilo o addirittura due profili, quindi potremmo avere il dual SIM virtuale, senza dover cambiare le SIM. Cioè nel giro di qualche anno le SIM scompariranno. Accidenti. Enrico, diamo la linea alla viabilità, poi ci ritroviamo ancora con qualche novità. Rimani con noi perché sono le 15:44 e 40 secondi, quindi direi che è il momento di dare la linea al traffico e poi torniamo insieme col sabato del villaggio. Ecco bene, adesso è tutto a posto. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Il sabato del villaggio. Non mi sono ancora ripresa dalla notizia secondo la quale scompariranno le SIM card, che ormai ci tengono compagnia da una ventina d'anni. Enrico, ancora novità di questa settimana, immagino ancora presentata a Barcellona. Allora, questa settimana HTC, che è nota, è un'azienda taiwanese nota soprattutto per gli smartphone, HTC ha annunciato che da lunedì si potrà ordinare l'HTC Vive. Che cos'è l'HTC Vive? L'HTC Vive è un visore di realtà virtuale, perché c'è un'euforia dell'industria verso la realtà virtuale, ed è sostanzialmente il grande concorrente di Oculus Rift. Oculus Rift è una poi Rift è il visore. Oculus è una società che è stata acquistata da Facebook e sul mercato stanno per uscire, perché si possono fare adesso i preordini, ma Oculus arriverà nel mese di marzo, ma penso che in Italia fino all'estate, se uno lo prenota, non lo riesce ad avere. E arrivano questi visori di realtà virtuale, sostanzialmente sono due i prodotti. In qualche modo tutto ciò c'entra anche con la telefonia mobile, perché questi due prodotti che ho citato hanno il display integrato, quindi immaginate un caschetto con il display davanti agli occhi, tutto integrato. Ci sono anche dei visori di realtà virtuale che hanno la parte ottica, che serve per fare questa immagine tridimensionale, sferica, davanti ai nostri occhi, per immergerci nella realtà virtuale. Ecco, alcuni di questi visori prevedono che io inserisca come display lo smartphone. Quindi io ho visto lo spot semplici, anche del Samsung 7, l'ho visto ieri sera mentre guardavo Crozza, confesso. Perché ecco, una cosa che non ho detto è che chi comprerà il Samsung S7 riceverà in omaggio il visore, che è solo la parte ottica, questo caschetto, poi cioè, all'interno del caschetto... Cioè sembra una, come si chiama, la maschera, quella dei sub, e sì, ci devi mettere dentro il telefonino, mi sembra di aver... Scusa la semplificazione, ma insomma... è proprio così. Invece Oculus Rift e HTC Vive, che sono molto più potenti, molto più costosi, ma molto più performanti, e devono essere attaccati al computer, quindi è una cosa un po' più complicata, però devo dire molto coinvolgente. Io ho passato una mattinata a fare delle prove sia con Oculus che con HTC, è divertentissimo. Poi potremo aprire il capitolo della sofferenza che uno, non sto parlando di cose gravi, però un pochettino di nausea dopo che uno ha passato qualche sì, decina di minuti, qualche ora a giocare, potrebbe, perché sei immerso in una realtà virtuale, quindi il tuo corpo vede, i tuoi occhi vedono cose e tu fai dei movimenti, ma il tuo corpo rimane sostanzialmente fermo. Quindi se tu cammini o corri, oppure io sono andato sull'Everest, ho fatto una scalata della montagna, però sostanzialmente lo fermi in una stanza, no? No, quindi... anche perché me l'avresti, cioè l'avrei saputo se tu avessi cominciato ad allenarti per andare sull'Everest. Esattamente, non... esattamente. E comunque c'è una grande euforia sul mercato, l'industria crede moltissimo nella realtà virtuale. Vedremo anche qui, perché stiamo parlando di prodotti che, ma è logico che sia così perché stanno per uscire sul mercato, prodotti non so se dire molto costosi, comunque abbastanza costosi, perché Oculus, di cui abbiamo già i prezzi in euro, costa 699, quindi 700 euro più spese di consegna, più bisogna considerare che bisogna avere un computer. Vabbè, a questo molto punto potrebbero potente. Consegnartelo gratis, però per 699 dovrebbero no. Invece no, c'è scritto così, più spese di consegna. E invece HTC Vive costa addirittura di più. Allora, fino a lunedì non sappiamo i prezzi in euro, adesso sappiamo che costa $799 e sarà 799 euro come ma al solito, ma potrebbe anche essere un po' di più, anche quindi, di più. Sì. È un pochettino più sofisticato perché ha anche dei controller diversi e ci si può anche muovere nella stanza. Ci sono dei sensori che poi ti dicono, ti avvisano se vai a sbattere contro il muro, perché la realtà virtuale certo, è comunque inserita in una realtà. Scusa, hai un coso in faccia, non vedi niente. Certo, quindi ti puoi muovere, però se sei in una stanza e tu cammini nella realtà virtuale, ma nella realtà, quella vera di casa tua, c'è un muro e ti devi fermare. Capita, succede. Quindi. C'è una domanda al 349-238-6666. Qualcuno ci chiede novità sui Nokia. Ci sono ancora? Tornano i Nokia? No, allora Nokia quest'anno Nokia... potrebbe, in base al contratto, sapete che Nokia ha venduto la divisione mobile a Microsoft, che non sta andando benissimo, ma è stata cancellata, il nome Nokia è stato cancellato, però Nokia, la vecchia Nokia, che oggi è il numero uno al mondo nelle infrastrutture per la telefonia mobile, antenne, eccetera eccetera, allora potrebbe fare smartphone con il brand Nokia. Però i manager di Nokia hanno più volte detto ultimamente che sì, ci stanno pensando, è una delle possibilità, però non lo hanno ancora deciso. Sul mercato col brand Nokia si trovano prodotti, ma che non sono smartphone, cioè sono i vecchi telefonini. Okay. Ci sono dei telefonini fantastici, 20-30 euro e vai da Dio, però è un però non sono un smartphone appunto. E li siamo allora possiamo dire al nostro ascoltatore o ascoltatrice, non si firma, non so, che li hanno promessi, arriveranno prima o poi. Sì, più che promessi hanno detto che ci stanno pensando. Ci stanno Io penso che sia un'opportunità, perché il brand Nokia è un brand fortissimo, però certo il mercato Android è un mercato molto complicato, certo. E devo dire che negli ultimi anni abbiamo visto dei tentativi di proporre sul mercato prodotti smartphone con dei sistemi operativi alternativi, ma tutti hanno fatto cilecca, come si dice. Grazie Enrico, è il momento di parlare di cinema. Resta ciao. Con noi ad ascoltare, perché sei molto appassionato, e rimaniamo in tema di supereroi, animazione, ecco qua. Che vuol dire essere umani? Che vuol dire soffrire? Che vuol dire sentirsi vivi? Tu sei straordinaria. Perché? Ancora non lo so, ma sono sicurissimo che sia così. Il nostro tempo è limitato, non dimenticatelo. Mi scusi se le ho preso la mano. Non fa niente. È stato istintivo, io odio volare. Le ho detto che non fa niente. Però mi lasci la mano ora. E questo è un frammento di Anomalisa, film d'animazione da questo fine settimana in sala, ma anche uno dei film che questo fine settimana, nella notte tra domenica e lunedì, in realtà si contenderanno gli Oscar. Ma vale la pena andare a vedere Anomalisa? Lo chiediamo come sempre al nostro super esperto Franco D'Assisti. Ciao Franco. Ciao Marta, ciao. Sì, Anomalisa, l'ultimo dei film praticamente in ordine di tempo che avranno appunto gli onori della notte degli Oscar ad uscire nei cinema italiani. Per il resto penso che li abbiamo praticamente visti quasi tutti. Charlie Kaufman firma il film con una tecnica che abbiamo già visto, cioè quella di cartoonizzare i personaggi in grande in carne e ossa, cioè in questo caso Jennifer Jason Leigh, David Tewils, Tom Noonan, che sono attori protagonisti in carne e ossa, ripresi in carne e ossa, ma poi attraverso un processo al computer portati allo stato di cartoon. E questo è un po' il meccanismo anche di Anomalisa, che è un film particolare, direi anche ostico, in certi momenti non particolarmente riuscito. Il gioco di portare sull'animazione lascia allo spettatore la sensazione di andare a vedere qualcosa di più semplice, fra virgolette. In realtà non è così, e il film in certi momenti affronta anche tematiche molto molto importanti, molto profonde, che forse non si addicono a una tecnica di questo tipo. Insomma, Charlie Kaufman ci prova spesso, ma non sempre ci riesce. Questo mi sembra essere uno di quei casi. Ancora film in uscita questo fine settimana, Il Club. Franco, dici qualcosa di questo film? Il Club di Pablo Larraín, visto che è un film cileno, io trovo che sia un capolavoro assoluto. È un film che riprende la storia, ne abbiamo parlato settimana scorsa, del caso Spotlight, quando il caso Spotlight finisce, cioè dopo che dei preti con storie di abusi su minori sono stati individuati e dalla Chiesa allontanati, dove finiscono? Finiscono nel club, finiscono in questa casa, in questo caso in fondo al Cile, in fondo al mondo, a espiare le proprie pene. Ma c'è sempre un mondo esterno, un mondo esterno che a un certo punto si ripresenta con gli occhi, lo sguardo e, fammi dire, anche la follia di un uomo che è diventato uomo, ma da bambino fu appunto abusato da uno di questi preti. È una storia durissima, è una storia girata in maniera divina da Pablo Larraín, con il grande Alfredo Castro, ormai uno degli attori imprescindibili del cinema, non solo sudamericano ma anche internazionale. E questo è davvero uno dei più bei film di questa stagione, che consiglio assolutamente di non perdere per nessun motivo. Uscite italiane invece in questi giorni? Allora, la commedia italiana, attraverso un ottimo momento, Perfetti Sconosciuti, sta veleggiando sulla base del passaparole. Probabilmente entro un paio di settimane supererà negli incassi assoluti anche The Revenant, diventando il secondo incasso di stagione dopo l'inarrivabile che è Cozzalone. Però ci fa dire che la commedia italiana è molto viva. Tirami Su di Fabio De Luigi tenta di entrare in questo spiraglio, dove c'è anche Verdone con il suo film. Lo fa però con una commedia media, fatemi dire, al di là del gioco di parole, cioè la storia di un uomo senza apparenti qualità che, per merito di un tiramisù di sua moglie dimenticato in uno studio medico, cambia la sua vita. Ora, al di là del scamotage, la sensazione di trovarsi di fronte invece a una commedia normale, senza il graffio di Checco Zalone, senza l'autoralità di Perfetti Sconosciuti, senza neanche l'albanese, il Verdone dell'altro film. Insomma, forse il pubblico italiano oggi si sta spostando più da un'altra parte, però sicuramente si sorride, anche se il prodotto non si discosta molto da alcuni momenti, diciamo, di estetica televisiva. Franco, appuntamento con te dopo il GR24 delle 18. Si parlerà ovviamente anche di un altro grande film italiano al quale abbiamo dedicato un bello spazio anche nel nostro Sabato del Villaggio. Dopo il GR delle 18, La Rosa Purpurea. Assolutamente, parleremo ovviamente inevitabilmente di lo chiamavano Gigrobò, lo vivisezioneremo, sentiremo le interviste a Santa Maria e a Mainetti, ma parleremo anche molto di Oscar. Abbiamo detto di Anomalisa, avremo proprio il nostro Toto Oscar per cercare di capire in anticipo, nei limiti del possibile, cosa succederà il 28 a Hollywood. Quindi vi aspetto alle 18 alla Rosa Purpurea. Grazie Franco e al prossimo sabato. Un saluto a te e a tutti. Sono dappertutto. Arrivisti, truffatori, ladri, corrotti. L'Italia sembra perduta. Eppure un manipolo di eroi resiste. Se non vuoi cedere al lato oscuro della forza, ascolta. Si può fare. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Il Sabato del Villaggio. Rieccoci insieme con la seconda ora del Sabato del Villaggio, il sabato pomeriggio di Radio 24, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio. E poi ancora parleremo tanto di supereroi. Quali saranno in particolare i temi della seconda ora del Sabato del Villaggio? Nello spazio dei libri con Alessandra Tedesco parleremo di David Foster Wallace con un ospite speciale, ma anche di una graphic novel, e questa vietata ai minori. Come sempre anche i consumi con Maria Luisa Pezzali, la musica con noi, un gruppo amatissimo, sono bravi, fighi, simpatici, Iperturbazione saranno con noi, ma prima torniamo con l'animazione, con Gigrobo che ci ha tenuto molto compagnia in questo sabato, anzi questo è quello originale. Ragazzo laggiù, coda dai lampi di blu, corri in aiuto di tutta la gente per l'umanità. Corri e va per la terra, corri e va tra le stelle, tu che puoi diventare un G. Cipa, cuore acciaio, cipa, cuore acciaio, cuore di un ragazzo che continuiamo a parlare di animazione, di fumetti, di graphic novel, di supereroi in questa puntata in cui questo è stato un po' il filo conduttore del nostro Sabato del Villaggio, con questo Gigrobo che ci ha tenuto molta compagnia. Ma quanto sono stati importanti i supereroi nell'animazione? Abbiamo al telefono uno dei più grandi esperti, ma non italiani, proprio mondiali. Peraltro da poco tempo è uscito con un compendio di storia dell'animazione che praticamente ci parla di tutto. Se qualcosa non c'è in quei libri vuol dire che non è esistito nell'animazione. Il titolo è Animation a World History, perché il libro in tre volumoni è in inglese, cioè lui è veramente un super esperto internazionale e ce l'abbiamo appunto al telefono. Buongiorno al professor Gianalberto Bendazzi, buongiorno. Buongiorno, buon sentiti a tutti. Professore, ma supereroi e animazione, un binomio vincente, ha sempre funzionato? Sì, sì, ha sempre funzionato fin dai tempi di Superman, quando la Fleischer, avendo perduto la battaglia mercantile con la Disney, si affidò a Superman and Boy Kid. Ah beh, quindi insomma, a volte dalle battaglie perse nascono storie nuove. La storia nuova fu un filone abbastanza breve, però rimasto nella memoria di tutti perché fu il primo film, la prima serie cinematografica d'animazione esplicitamente dedicata agli adolescenti e agli adulti, non ai bambini. Diventano, come dire, la trasposizione del desiderio dell'adolescente di essere affascinante con tutte le ragazze, più forte del più forte della classe, più acuto del migliore della classe, in sostanza quello che permette ai ragazzi di misurarsi con se stessi la realtà. E quindi poi c'è l'elemento acrobatico che è sempre affascinante nel momento in cui un supereroe riesce a ghiacciare l'acqua o ad arrampicarsi sui fili del ragno, è sempre un elemento che si inserisce nella logicità della vita quotidiana, gli dà più piacere, più gioia. Superman e tanti altri che hanno poteri diversi, ma che più o meno poi in quegli anni hanno raccontato storie parallele simili. Sì, essenzialmente Superman si vantava di essere colui quale sosteneva la giustizia e l'American Way of Life. In un certo senso era un personaggio della Guerra Fredda. Però sono tutti quanti personaggi che intervengono laddove l'uomo medio non può intervenire, quindi in un certo senso sono tutti quanti il modello del Presidente degli Stati Uniti. Abbiamo parlato di un Superman cinematografico, però con Gigrobo, che sono segna un po' l'arrivo dei cartoni animati, abbiamo segnato l'immaginario di tante generazioni. Cos'è stato per i supereroi passare dal cinema e arrivare nelle serie animate? A noi vengono subito in mente i giapponesi, ma non solo. Per la verità hanno cominciato gli americani con la Marvel, però diciamo che le due cose vanno contemporaneamente, parallelamente, ma senza toccarsi. I giapponesi avevano bisogno di trovare uno sfogo fantastico al bombardamento di Hiroshima e Nagasaki, quindi sono sempre pronti a respingere queste forze, queste macchine benevole o malevole, per lo più malevole, che vengono dallo spazio esterno contro la Terra. Ora, evidentemente la Terra per loro era la loro Terra, cioè il Giappone, e quindi almeno fantasmaticamente riuscivano a vincere una guerra che avevano perduta. Invece negli Stati Uniti si trattava di risolvere i problemi quotidiani e la nevrosi della guerra fredda, quindi ogni problema che si presentasse era tale da scuotere le anime, ma la presenza del supereroe portava la salvezza. E quindi quando i film le serie televisive dei supereroi venivano proiettate nel sabato mattina per i ragazzi, questo comportava che i ragazzi finivano la settimana bene e cominciavano il weekend bene, perché trovavano i loro vecchi amici che facevano ciò che loro non sarebbero stati fisicamente in grado di fare. Professore, io ho una mia curiosità personale. Da bambina degli anni 70, o più che altro 80, noi eravamo abituati e appassionati di un'animazione dai tratti molto semplici, appunto Jig, Mazinga, Goldrake. Poi negli anni è arrivata un'animazione molto molto più complicata e molto più complessa, grazie alle nuove tecniche della computer graphics. Ma perché a noi di queste generazioni la vecchia animazione colpisce sempre il cuore e l'immaginario? Perché a differenza di quanto faccia il disegno opulento, l'animazione limitata e il disegno essenziale colpiscono il centro del problema, mentre quando abbiamo un personaggio che ha tanti movimenti noi ce ne perdiamo alcuni. Nel momento in cui abbiamo un personaggio che ha un movimento significativo, allora cogliamo quello e cogliamo il messaggio. Infatti nella storia del cinema d'animazione uno dei grandi momenti di cambiamento fu l'ingresso della UPA, United Productions of America, che appunto valutava la scelta di usare colori semplici e puri, accenni di scenografia, animazione limitata e personaggi bidimensionali, in questo modo contrapponendosi all'animazione opulenta, rotondeggiante, un po' gommosa, un po' rimbalzante della Disney e degli iniziatori della Disney. E quello fu un momento che io considero veramente affascinante, un momento in cui l'animazione americana sarebbe potuta diventare una grandissima animazione, mentre invece è rimasta una grande animazione. Ecco, io lo chiedo sempre ai nostri ospiti, qualche consiglio. Non posso non chiedere a lei, professor Bendazzi, qualcosa dell'animazione, in particolare sui supereroi, così, che lei ci può consigliare, visto che lei è il maggiore esperto, da scoprire, magari qualcosa che è passato sotto silenzio, che noi non abbiamo mai visto. Che cosa dobbiamo andare a recuperare? Secondo me dobbiamo andare a recuperare i giapponesi, cioè ci sono una quantità di film giapponesi, magari mal doppiati o non doppiati, che però si capiscono perché hanno i sottotitoli in inglese o in francese, e che rappresentano delle autentiche meraviglie, dei gioielli. Bisogna semplicemente tuffarcisi dentro, perché non è una di quelle cose in cui uno possa preferire un genere o un altro genere. Secondo me l'animazione giapponese dal 1980 in poi è diventata una fornace di talenti e di opere d'autore che erroneamente è stata indicata come genere. Non dimentichiamo ovviamente Miyazaki. Professor Bendazzi, grazie per essere stato con noi. Io ricordo il titolo della sua opera monumentale, 3 volumi, Animation, A World History. Si trova in rete, si trova nei negozi online, anche in formato elettronico. Ringrazio il professor Gianalberto Bendazzi per essere stato con noi. La chiamiamo di nuovo, professore, grazie per essere stato con noi. Arrivederci a tutti. Il sabato del villaggio. E io ringrazio Francesco da Vicenza che ci segnala, scrivendoci un sms al 349-238-6666, che oggi e domani a Vicenza c'è la Fiera del Fumetto. Stavo guardando The Comics, non lo sapevo, grazie della segnalazione. Per tutti coloro che fossero in zona o che avessero voglia di andarsi a fare un giro a Vicenza, la Fiera del Fumetto e Games The Comics a Vicenza. Grazie Francesco, adesso al Sabato del Villaggio è il momento di parlare di libri. Quando penso a questo viaggio, vedo David e me sui sedili anteriori della sua auto. David Wallace, benvenuto a Minneapolis! Cosa tratta questa storia? Cosa si prova ad essere lo scrittore più discusso del momento? Quel genere di cose. Penso che se un libro tratta qualcosa, tratta la questione del perché. Cosa di tanto universale quello che sto facendo? Non apri un libro di 1000 pagine perché hai sentito che l'autore è un uomo normale. Lo fai perché è geniale. Che cos'hai? Che cosa hai tu? Non sono sicuro che tu voglia essere me. Sei solo un bravo ragazzo. Ed è uscito qualche giorno fa questo film dedicato alla figura di uno scrittore che io, ve lo dico subito, ho amato tantissimo. Poi magari vi racconto anche come l'ho scoperto. Il film era The End of the Tour, dedicato alla figura di David Foster Wallace, e quindi ne parliamo con la nostra super esperta Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ciao Marta. Sì, questo è un film che è stato tratto a sua volta da un libro, Come diventare se stessi, in cui questo giornalista di del Rolling Stone sostanzialmente intervistava David Foster Wallace essendo andato con lui nel tour che aveva lanciato il suo più grande successo, che è stato Infinite Jest. Ricordiamo che David Foster Wallace purtroppo si è suicidato nel 2008, ma è rimasto, come dire, una pietra miliare fra gli scrittori contemporanei americani. Tu prima facevi riferimento a come tu hai scoperto David Foster Wallace, sì. Ma se tu l'hai scoperto, è perché qualcun altro l'ha scoperto prima di me, l'ha portato in Italia. Esattamente, quel qualcun altro è Sandro Veronesi. Ciao Sandro. Ciao. Allora, tu hai scoperto e hai portato in Italia, qui da noi, David Foster Wallace quando, diciamo, un po' non se lo filava nessuno, insomma, era l'epoca della Fandango, quindi i suoi libri, come per esempio il suo romanzo d'esordio La scopa del sistema e poi ovviamente Infinite Jest, furono appunto pubblicati dalla Fandango. Che cos'è che ti colpì di questo scrittore? Allora, per correttezza bisogna dire che Minimum Fax aveva già pubblicato dei racconti. Il problema era che Infinite Jest era 1400 pagine. Il problema è che nessuno aveva avuto il coraggio di tradurlo e di pubblicarlo, così grosso e ponderoso com'era, considerato quasi intraducibile. E noi invece fondammo una casa editrice per tradurlo e pubblicarlo. E nel pacchetto comprammo anche, perché era libero, il primo romanzo, La scopa del sistema, che lo stesso Wallace all'epoca snobbava un po' perché era su un piano, diciamo, inferiore ovviamente, ma è un bellissimo romanzo, per cui noi pubblicammo prima La scopa del sistema, che era abbastanza semplice da tradurre, e poi, con una traduzione tormentata che fu risolta, diciamo, dall'intervento diretto di Edoardo Nesi, che ci ha perso tipo un anno di vita, pubblicammo Infinite Jest. Ero stato in America l'anno prima e a intervistare scrittori per una trasmissione televisiva, e tutti mi dicevano di questo libro. Per cui tornai a casa in Italia con questo libro che era appena uscito, però constatai che nessun grande editore osava pubblicarlo. Ecco, perché 1400 pagine sono sicuramente impegnative. Qual è il valore di questo romanzo che è rimasto oggi nella letteratura contemporanea, secondo te? Ma guardi, è l'intensità letteraria. Cioè, non c'è nessuna pagina di Infinite Jest che sia trascurabile o irrilevante, comprese le note. Ci sono 200 pagine di note, sempre dell'autore, che uno tenderebbe, anche per la scomodità, no, di andare a cercare la nota in fondo e tornare, di saltare, ma sono fondamentali. Cioè, sono pagine che da sole potrebbero rappresentare a volte lo spunto per un intero romanzo. Per cui è il romanzo dei romanzi, non so come dire, ed è una specie di immersione nella contemporaneità e nel dolore mentale, che della contemporaneità è un po' il simbolo, che non ha eguali. Non c'è nulla da fare, perché nessuno tra gli scrittori contemporanei, anche i più dotati, è andato così addentro al concetto di dolore mentale quanto, ahimè, purtroppo, evidentemente anche per ragioni biografiche, è riuscito ad andarci Wallace. Dopodiché il dono che gli era stato dato, che è un dono che si vede anche nel film, perché è una persona che non riesce a dire cose banali, che non riesce mai a essere leggero, ma sempre dice cose fondamentali, e ha fatto il resto, cioè è venuto fuori un capolavoro veramente imprescindibile. È un libro di 1400 pagine, ma se tu lo apri a caso e ti metti a leggere 10 pagine, capisci che dovrai leggerlo tutto, perché è vero, è una sfida, però come lasciare lì tanta bellezza, tanta densità, tanta poesia? È impossibile, se ce l'hai sotto mano lo devi leggere. Ecco, Infinite Jest è sicuramente lo specchio dell'interiorità anche di Wallace, perché si parla appunto di rapporti interpersonali, l'uso delle droghe e così via, insomma, l'hai benissimo descritto tu. Ma chi non avesse il coraggio, no, di iniziare a conoscere Wallace con 1400 pagine di Infinite Jest, tu che cosa consiglieresti? Perché lui ha scritto tantissime raccolte di racconti, qui davanti per esempio La ragazza dai capelli strani, che a me era piaciuto molto, oppure Un antidoto contro la solitudine, entrambi pubblicati da Minimum Fax. Insomma, tu che cosa consiglieresti? Io consiglierei di cominciare dall'inizio e leggere La scopa del sistema, perché è un romanzo di college in teoria, quindi di poco più che adolescenti, di giovani, di ventenni, ma ci sono anche delle figure di quarantenni, lui l'ha scritta a 22 anni, che io l'ho letto quando avevo più o meno 40 passanni e mi sembrava impossibile che un ragazzo di 22 potesse capire la psicologia di un uomo di 40, perché quando io avevo 20 anni i quarantenni per me non esistevano, erano i professori a scuola, all'università, ma non erano dotati per me di un'interiorità, e tantomeno ero in grado di svilupparla e di metterla in scena letterariamente. Questo a 22 anni aveva già questo dono, e se lo si legge La scopa del sistema, io consiglierei di fare molta attenzione alla data in cui si svolge l'ultima scena, perché l'ultima scena praticamente finisce col crollo di un grattacielo, e la data è stato scritto nell'87 in America. Bene, la data è 11 settembre 2001. Un romanzo profetico. A quanto pare sì, non può non essere anche profetico. Quando c'è quell'intensità lì, ci sono dentro anche le profezie, involontaria ovviamente, perché è un caso, però fateci caso, e questo enorme grattacielo viene giù, e se si risale indietro di qualche pagina quando ci sono le notazioni cronologiche, ci rendiamo conto che è l'11 settembre 2001. Adesso lo confesso, come ho scoperto io Infinite Jest, era appena uscito, io l'avevo trovato in biblioteca nel reparto in cui vengono esposti i libri appena usciti. Io vidi quella copertina con le nuvole e dissi: ma chissà cos'è questo romanzo nuovo? E non mi ha mai più abbandonato, quindi io ringrazio anche Sandro Veronesi perché mi ha aiutato a scoprire un romanzo che mi ha accompagnato allora e non mi ha lasciato più, veramente grazie. Avemmo problemi anche a trovare espositori che riuscissero a contenerlo. È vero. Per quanto era grosso, avevamo problemi per la rilegatura, perché era fuori da ogni standard anche diciamo industriale, no? Ed era la ragione per cui i grandi editori non avevano osato farlo. Invece lo vendemmo benissimo, fu uno dei successi di Fandango Libri. Beh, è diventato un long seller, lo possiamo dire, oltre che best seller. Grazie Sandro Veronesi per averci raccontato questa parte anche un po' più privata della scoperta di David Foster Wallace. A presto. Grazie a voi. Che bella questa pagina dedicata a David Foster Wallace, che a me davvero ha sempre tenuto compagnia per tanto tempo. Per chi ha il coraggio di affrontare le 1400 pagine, altrimenti ci sono le raccolte di racconti. E prova a vedere se è più divertente leggerlo in fila, salta beccare da una nota all'altra, leggere insieme le note. È un'avventura quel romanzo. Alessandra, c'è un romanzo che mi incuriosisce molto, che hai davanti a te, del quale sento parlare, voglio sapere se va letto oppure no, raccontami. Va letto, questo te lo dico subito. Copertina Rosso Fuoco, Chiara Gamberale, si intitola Adesso, pubblicato da Feltrinelli. Se ne sta parlando molto perché Chiara Gamberale è una scrittrice, insomma, molto popolare, i suoi libri arrivano subito in classifica. Questo è il legato, tra l'altro, è come se fosse un sequel del suo libro precedente, Per 10 minuti. La protagonista è sempre Lidia, una donna che cerca di ricostruire la sua vita dopo il divorzio dal marito Lorenzo. Con quest'uomo aveva avuto un rapporto forse anche malato, perché c'era sì un forte legame, ma c'era un prendersi, un lasciarsi, un lui che non la desiderava fisicamente e quindi la tradiva, insomma quasi un rapporto malato. E Lidia, in questo nuovo romanzo Adesso, inizia una relazione d'amore con Pietro, e Ci sono due frasi che io ho segnato di questo romanzo che veramente mi ha appassionato. Ci sono tutte le problematiche che si porta dentro questa donna quarantenne, Lidia, con tutti i suoi problemi esistenziali, il fatto di aver superato l'anoressia e così via. E a un certo punto c'è Pietro che dice a Lidia: «Ti capisco e non mi spaventi, Lidia». «Che?» dice lei. «Ti capisco e non mi spaventi». Secondo me è proprio in queste poche frasi tutto il nocciolo del rapporto intenso che si crea fra Lidia e Pietro. Lui che non ha paura dei suoi problemi, del suo bagaglio, del suo zainetto, di quello che tutti ci portiamo dietro, insomma, dopo tanti anni di vita emotiva più o meno, insomma, equilibrata. Due domande. La prima, possiamo leggerlo anche se non abbiamo letto quello precedente? Assolutamente sì, assolutamente sì. Seconda domanda, a chi lo consigliamo? Guarda, io lo consiglio a uomini e donne che magari, non so, stanno vivendo il periodo dopo una separazione sentimentale oppure un periodo di solitudine, di singletudine, come si dice oggi, però sono pronti a rimettersi in gioco, ad innamorarsi di nuovo, a capire che possono incontrare una persona che dice: «Non ho paura di te». Ah, oh, che meraviglia! Guarda, io lo chiuderei qua, questo blocco, ma abbiamo ancora qualche minuto prima della pausa. Mi piacerebbe concludere con questa frase. Ma dobbiamo parlare ancora d'amore? Sì, ancora d'amore. Guarda, Bu, sarà stato che il San Valentino tu eri a Sanremo, sì. Quindi no, io ho fatto delle ricerche. Una graphic novel, Love Addict, confessioni di un seduttore seriale, scritto da Koren Shadmi, che è un israeliano che vive a New York, pubblicato in Italia da Bau Publishing. Insomma, ci sta benissimo in questo sabato del villaggio. Abbiamo parlato tanto di fumetti, di animazione, appunto di graphic novel. Di cosa si tratta? Ve la consiglio perché la descrizione dell'amore dai 25enni ai 40-45 anni attuali, cioè quelli che vanno su Tinder, su Meetic, su tutte queste applicazioni dove si possono poi creare degli incontri reali con persone con cui si può avere solo una relazione sessuale o magari poi anche sentimentale. In questo caso il social si chiama Love Bug, è ambientato a New York. C'è il protagonista, appunto, che vive un periodo di singletudine sfigata. Un amico lo consiglia e dice: «Guarda, vai su Love Bug», e ha addirittura 75 o 76 incontri, una roba del genere. Accidenti. Pensa che l'autore di questa graphic novel è molto famoso negli Stati Uniti, anche perché è un illustratore del New York Times, del Washington Post. È stato paragonato a Robert Crumb, che è un famosissimo fumettista americano, per lo stile grottesco dei disegni. Shadmi fa sia disegni che testi, e se tu vedi in questa graphic novel, gli uomini hanno tutte delle facce normali, le donne hanno delle facce assurde, dei lineamenti pesanti, chissà delle facce grottesche. Chissà cosa, ma chissà. Consigliato ai maggiorenni, soprattutto okay. La seconda parte, diciamo, okay. È molto esplicita. Okay. Diciamo, allora ci devo passare assolutamente. Adesso mi hai incuriosito, voglio leggerlo. Alessandra, concludiamo con il consiglio dei consigli. Quando il cacciatore di libri? Come sempre, ogni sabato alle 6:30 del mattino per i mattinieri, alle 22 per tutti gli altri, e poi podcast, podcast, podcast. Grazie, Alessandra. Al prossimo sabato. Ciao. Il sabato del villaggio. E c'è un ascoltatore che ci scrive che effettivamente ha iniziato a leggere Infinite Jest, poi si era fermato perché era troppo pieno, e ora dice: ora che ho una vita più rilassata ho ripreso a leggerlo da martedì scorso. Vedi che coincidenza, va letto fermandosi ogni tanto e riflettendo, non tutto d'un fiato. Allora, dai libri apriamo un'altra pagina del nostro sabato del villaggio, quella dei consumi. Combatti meglio di chiunque altro, ma io ho le informazioni. La Yakuza è ancora qui. È impossibile. L'ho mandata via da New York. È qui che sbagli. È rimasta in letargo mentre tu eliminavi i suoi nemici. La città è pronta per essere conquistata. Se accetto, nessuno muore. È tutto chiaro? E questo è il secondo trailer della serie Marvel che va su Netflix, Daredevil 2. Arriverà il 18 marzo in tutti i paesi, 13 episodi, attesissima. Dopo il successo di Daredevil, stiamo parlando di animazione, fumetti, graphic novel. Questo mondo ci sta un po' tenendo per mano in questo sabato del villaggio, e coinvolgiamo anche la nostra pagina dei consumi, la nostra super esperta Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Fatti trascinare anche tu in in questo mondo. Beh, dei guarda, fumetti. Io sono una super patita di supereroi, non me ne perdo uno, veramente. Il preferito? Iron Man. Ah, vabbè, affascinante. Sono ci in piace. Buona compagnia. Ci piace, sì. Beh, insomma, mi hai chiesto appunto di esplorare questa tendenza nel mondo dei consumi. È una grandissima tendenza nel mondo dei consumi, la nona arte, chiamiamola così, il fumetto contagia moltissimi settori in modo trasversale, parliamo di consumi culturali ma non solo, è un linguaggio universale, trasversale appunto, è diventato anche strumento di denuncia sociale, esiste ad esempio anche il graphic journalism che sta avendo molto successo. Parliamo ovviamente del mondo editoriale con i fumetti veri e propri e poi anticipavi tu di quello televisivo e cinematografico con film, cartoon, serie TV e ricordiamoci tra l'altro che una serie TV cult come The Walking Dead è tratta da un'omonima serie a fumetti sugli zombie, certo, appunto, quindi certo. C'è anche questa osmosi continua tra mondo cartaceo e quello invece dello schermo piccolo o grande. Poi parliamo anche e soprattutto, Marta, di mostre, di rassegne. Lucca Comics, la più famosa. È incredibile, ad esempio quando si ascolta la radio e c'è l'appuntamento per la viabilità, per una settimana la viabilità dice che c'è traffico attorno sì, a Lucca. C'è traffico, ci sono i treni intasati, perché poi io ho storie di amici insomma, che non riescono ad arrivare, esatto, disperati, che cercano passaggi per Lucca perché i treni sono pieni. Perché poi Lucca è una piccola cittadina che in quell'occasione diventa la capitale internazionale del fumetto e di tutto quello che ci gira intorno. E poi c'è anche Cartoomix, ad esempio, ormai vicinissima, dall'11 al 13 marzo alla Fiera di Milano, certo, oppure Romix alla Fiera di Roma dal 7 al 10 aprile. Ospite d'onore, un grande annuncio che è stato fatto. Ho sentito qualcosa, dici? Sei preparata? Go Nagai, il grande fumettista giapponese, creatore, per capirci, di UFO Robot, Goldrake, Mazinga, Gigrobot. È Gigrobot che ci ha accompagnato dall'inizio di questo sabato, con lo chiamavano Gigrobot, torna sempre, quindi a Roma. Grande attesa, il buzz insomma in rete è già altissimo. E poi parliamo di musei. A Milano c'è il Museo del Fumetto, che sta crescendo molto in questi anni, segnalo, perché fa rassegne veramente interessanti. E poi parliamo anche di un fenomeno di costume, Marta, come il cosplaying. Ah, incredibile. Io ecco, non ho mai provato a travestirmi, però mi piace molto guardarli. Beh, ho una nipote appassionata, quindi sì, insomma ho esplorato questo mondo, è un mondo incredibile, l'hobby appunto di travestirsi vestendosi come i personaggi di manga, cartoni animati e videogiochi. E poi abbiamo comunque una grandissima presenza dell'immaginario dei fumetti e dei supereroi nel mondo della moda e del design. Citerei su tutto l'esperimento che ha fatto scuola, la collaborazione tra Witton e l'artista giapponese Takashi Murakami, che quanto ci sono piaciute esatto, arrivò proprio a reinventare il logo, quindi fu veramente una grandissima contaminazione tra moda e mondo del fumetto. E poi, tornando al mondo editoriale, ci sono anche nuove serie che arrivano da case editrici storiche. In questo caso parliamo di Sergio Bonelli, la storica casa editrice italiana, quella di Tex e di Landog. Qualche mese fa per la Sergio Bonelli ha debuttato Morgan Lost, un nuovo supereroe un po' pulp alla Tarantino, un po' da brivido alla Dario Argento. È un supereroe antieroe daltonico, insomma, ha caratteristiche questi supereroi un po' sciupati, mi piacciono. Robert Downey Jr. sarebbe insegna, perfetto, esatto, sì, esatto. E a firmarla è Claudio Chiaverotti, è un nome cult, già sceneggiatore di Dylan Dog e creatore di Brandon. E allora abbiamo proprio chiesto a lui di raccontarci Morgan Lost. È un protagonista che ha una maschera tatuata sul volto, è daltonico, cioè vede la realtà in sfumatura di grigio e sfumatura di rosso, ed è lo stesso modo in cui la vedranno i lettori. Cioè Morgan Lost introduce anche un'importantissima, a mio parere, novità grafica nella pagina bonelliana. La tua ispirazione? Viene dalla mia passione per il thriller, in quanto proprio meccanismo narrativo, perché se fatto bene ti coinvolge tantissimo, no? Cioè ti inchioda alla poltrona, alla sedia e non ti alzi finché non viene risolto il mistero. Viene anche dalla mia passione per il cinema in generale, che poi ho messo parecchio in Morgan Lost. Mi piaceva proprio l'idea di mostrare una persona come noi che per forza di cose poi si avventura nell'oscurità, nel buio dell'animo umano, del suo e anche di quello delle persone che poi lui va a cercare, persone o non persone, dipende poi dalle storie, no? Al di là del fatto che ho cercato di fare delle storie dure, serrate, cioè che non ti mollano mai, perché questo deve essere, no, un fumetto che ti prende, così come un film quando ti prende bene, ma comunque secondo me queste sfumature di grigio e sfumature di rosso danno assolutamente un'atmosfera particolare. Bella questa intervista, bello sentir parlare di questo Morgan Lost, Claudio Chiaverotti, un personaggio davvero singolare. Maria Luisa, mi viene da chiederti se ci sono altri aspetti in questo mondo dei fumetti, delle graphic novel, perché per quanto riguarda i consumi, secondo me è un tema che viene affrontato in tantissimi modi. Sì, assolutamente, non si può ad esempio non citare il collezionismo. Certo. Per capirne le dimensioni basta frequentare le fumetterie, che stanno avendo tra l'altro un boom come fenomeno retail, oppure i mercatini. Mercatini. Sì, gli appassionati li conoscono tutti. Esatto, e proprio qui ho scoperto che esiste un ente nazionale di certificazione della rarità dei fumetti. Ma dai. Lo ignoravo, è la CGC, Certified Guarantee Company, fornisce i fumetti di un codice identificativo, li sigilla in buste, in confezioni di plastica trasparenti, con appunto il codice, il titolo imbustati. Sarà capitato a moltissimi, infatti io poi me ne sono ricordata di trovarli così imbustati nelle bancarelle. Ma che cose si scoprono dei collezionisti? È un mondo incredibile. Sì, sì, sì, ne sanno tantissime, è un mondo molto affascinante. Maria Luisa, passiamo ai consigli anticrisi, alle strategie. Sentiamo se c'è in linea la nostra Cristina Lazzati. Ciao Cristina. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Cristina, qual è il tuo supereroe preferito? Tex. Ah, ecco, vedi, cioè abbiamo un altro grande supereroe, ottima scelta. Grande lettrice di Tex, ringraziare mio padre che malgrado fossi femmina decideva per me i primi fumetti e quindi sono da Tex, poi sono passata Valentina Mela Verde. Bello, sono molto contenta. Cristina, però i tuoi consigli anticrisi questa settimana dove ci portano? Ci portano a cercare casa o a offrirla in un mercato dove comunque le agenzie sono costose, la ricerca comunque sempre più via internet. È nato homepal.it, home da casa, pal proprio da tra amici, perché di fatto non c'è un'agenzia, ci sono molto coinvolti i social network e quindi si può andare su questo sito e cercarsi una casa dove ci sono una serie di informazioni, perché essendo appunto un sito con una raccolta di dati dagli utenti, la casa viene recensita non solo da chi la visita, ma anche tutti gli amici del padrone di casa che magari li ha ospitati a dormire sul divano per splendide cene, sono invitati a postare su questo sito anche le foto, i loro commenti, i commenti sulla zona e quant'altro. Cristina, stiamo parlando di vendite, affitti, non di vacanze, stiamo parlando di vero mercato immobiliare. Vero mercato immobiliare, diciamo che a guardare il sito ci sono molte offerte per i giovani, giovanissimi, per cui affitti per due persone, per studenti, quindi anche a un mercato, come dire, anche meno ricco tra virgolette, ma sicuramente sempre più interessati i famosi, insomma questi millennials forse hanno voglia di andare a vivere da soli e però insomma bisogna anche stare un po' attenti al portafoglio. Tra l'altro si possono fare anche le offerte online per fare un calendario e più o meno come funziona sui siti quelli che conosciamo un po' di più tipo Airbnb, c'è un calendario, uno fissa l'appuntamento, va a vederla, gli piace, fa un'offerta online o anche più bassa, cioè quella che ritiene opportuna, e in due giorni il sito garantisce una risposta. Se tutto questo funziona, quindi uno trova casa e la compra, Homepal fattura 290 euro, per l'affitto 90 euro, tutto il resto invece è gratis, se la casa non viene trovata o non piace eccetera eccetera invece la cosa prosegue gratuitamente. Beh, un bel concorrente all'orizzonte, più che altro un modello minaccioso per le agenzie immobiliari, vedo. Sì, perché col linguaggio social, il linguaggio dei reality mi sembra molto più contemporaneo e che ha un appeal molto più immediato. Sì, all'inizio anche gli alberghi non temevano Airbnb, insomma poi si è capito che era veramente un modello dirompente. E poi hanno, dal non capirlo, sono passati direttamente alla guerra. Esatto. Senza passare per il via. Grazie a Cristina Lazzati per essere con noi anche questo sabato del villaggio. Grazie Cristina. Grazie a voi, ciao ciao. E invece Maria Luisa, con te l'appuntamento domani con domani, Essere Avere. Essere Avere, come sempre, dopo il GR delle 22. A grazie, presto. A presto. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presento Il sabato del villaggio. Salire o scendere, donare o prendere, dipende tutto da te, dipende tutto da fermarsi o correre, fuggire o fingere, dipende tutto da te, dipende tutto da. Non ci puoi credere, 7 miliardi a che, bisogno c'era di te, bisogno c'era di guadagnarsi il pane, ma avere sempre fame, di accontentarsi ma non smettere di desiderare, dipende da te. Da te, non cedere alle critiche ma impara a cambiare, dipende da te, dipende da te, se servi o sei servito, se sorridere. Questo pezzo mi piace tantissimo, che me lo ascolterei tutto. Dipende solo da te, cioè dipende da te è il titolo del pezzo. Le storie che ci raccontiamo è il titolo dell'album e noi ce le abbiamo qua, i Perturbazione. Buonasera. Buonasera. Ciao, buonasera. Abbiamo un sacco di Perturbazione qui in studio oggi. Vi presentate, che alla radio non vi vede, non ci si vede. Facciamo le presentazioni. Tommy, voce. Rossano, batteria. Cristiano, chitarra. Che belli, Perturbazione. Le storie che ci raccontiamo, perché voi raccontate delle storie, ma anche perché nella vita ci raccontiamo un sacco di storie. Mi sembra un titolo multiscopo, multipurpose. Guarda, cosa mi dite? Perché poi il titolo è sempre... Beh sì, arrivati qui, forse gli ascoltatori non lo sanno, ma Radio 24 sta in una bellissima sede progettata dall'architetto Renzo Piano. Bella. Di fronte alla sede del Sole 24 Ore, quindi Radio 24, c'è quello che a tutti insomma sembra decisamente un centro sociale, una casa occupata, tipo sì, con sì, il classico look di quel tipo di edificio. Diciamo che le storie che ci raccontiamo, secondo me, stanno esattamente nel mezzo, nella strada che separa queste due cose. Da qualche parte, lì dentro, probabilmente c'è qualcuno che se la racconta. Qui a Radio 24 probabilmente qualcuno se la sta raccontando, ognuno pensa di avere la propria versione, e a noi interessa molto spesso quello che viene fuori nella contraddizione via Monterosa, di quel quelli che passano per via Monterosa in mezzo. Bella, mi piace questa immagine. In questo disco c'è tanto, però vi chiedo subito, quando si va nel negozio di dischi, per chi ancora va nel negozio di dischi a comprarli fisici, che è comunque un bel momento, a me piace ancora, chissà, magari sabato pomeriggio qualcuno sta girando alla ricerca di un negozio di dischi per comprarsi ancora un CD, voi volete essere messi nello scaffalino dell'indie, della musica indipendente che fa molto chic, o nelle cose più mainstream per il grande pubblico che vendono tanto? Ti dico dove siamo messi, a noi va benissimo. Siamo messi appena prima di Pezzali. Perturbazione Pezzali, va benissimo così. Beh, l'ordine alfabetico è bello come... Quindi nel pop italiano, diciamo. Pop italiano, sì, sì. Io grandissima fan del pop italiano, quindi va benissimo. Anche voi vi siete guardati tanto in giro però per questo disco, eh? Un sacco, anche perché quando man mano quando una persona cresce accumula esperienze, accumula storie. Poi il disco si chiama Le storie che ci raccontiamo, anche perché banalmente la parola storie è forse la più ripetuta in tutto il disco, e ci siamo guardati intorno cercando di fare una cosa che fosse meno ombelicale possibile, Come ripete sempre Tommaso, con una formula meravigliosa, che fosse, diciamo, molto intima ma non privata. Bella, intima ma non privata. In realtà non è mia, l'ho rubata a mia volta da, ma tu portatela da un buon amico. Ma portatela a casa. Citiamo una, no, è stato un bellissimo commento che hanno fatto sulla nostra musica, e credo che sia, sì, è proprio l'idea di staccarsi da quella che è la quotidianità. Molto spesso con Rossano, noi due ci occupiamo della parte dei testi, partiamo da quella che è la quotidianità, che molto spesso è fatta di comunicazione continua e un bombardamento anche attraverso i social, e penso che tutti, uomini e donne, abbiamo bisogno tantissimo di storie. Non credo che sia un caso che il successo delle serie in quest'epoca corrisponda anche con quel tipo di comunicazione lì, perché vuoi staccare e immergerti in qualcosa che invece è stato filtrato, editato e ti viene raccontato bene. Il successo delle serie, quindi, visto che noi il sabato parliamo tanto e parleremo ancora poi nella prossima ora di serie, vi chiedo subito cosa guardate. Le serie in TV? Sì. Allora, io rispondo, so che Tommaso è stato un fanatico di Breaking Bad. Sì, ma anche io passo da grandi opposti, Breaking Bad, ma anche Downton Abbey, cioè proprio no, come... ti vedo sì, con io col ho una mamma pasticcini. Che era professoressa d'inglese, quindi quel tipo di roba lì. Beh, da Emma Thompson in giù, io ci sono. Guarda, adesso veramente basta, finiamo qua, andiamo a guardarci una puntata di Downton Abbey, ma grandissimo. E attenzione, a proposito di serie, mi piace ricordare che si mormora in giro che la sigla di How I Met Your Mother sia estremamente simile a una nostra vecchia canzone si che si chiama Mondo Tempesta. Si lo dice, dico si per dice. Completezza. Solo per evitare problemi con Ennio Morricone, la sigla è precedente. Sì, perché poi i torinesi in questo periodo stanno facendo un po' di confusione con le cronologie, quindi non facciamo gaffes. Togliamoci il pensiero, ve lo devo chiedere perché si è fatto tanto il vostro nome per Sanremo, e in tanti, anche a Sanremo, giornalisti in conferenza stampa hanno tirato fuori la domanda: ma i perturbazioni ci stavano benissimo? Ditemi qual è la verità, ditemi l'ultima. Che ci stavano benissimo. No, la verità è molto semplice, però detto che oltre a noi ce ne potevano stare un altro miliardo, voglio dire, no? Quindi non c'è nessuna pietra dello scandalo. La verità è che noi abbiamo provato a proporre un brano, un paio di brani alla commissione. Brani che sono nell'album. Che sono nell'album, uno è per l'altro Dipende da te, l'abbiamo ascoltato prima. Devo dire che l'abbiamo fatto più come atto pro forma, così, perché c'era una certa simultaneità fra i nostri progetti sull'uscita del disco, ma non l'abbiamo fatto con questa grandissima convinzione. Il casino è che invece il brano è piaciuto molto. Esatto, e allora quindi lo sapete che il vostro nome è venuto fuori tante volte. Ma magari volte. Torniamo, mica detto una volta infatti. Ci avete provato, evidentemente andato, non vi siete annoiati. No, perché... no, perché di solito i gruppi, quelli un po' più vanno dicendo sempre però andiamo solo perché si devono scusare coi fan, e poi stanno lì una settimana a fingere di annoiarsi, a non ammettere di divertirsi perché non possono. Attenta, a noi è piaciuto tantissimo, non siamo snob per nulla rispetto a questa cosa, è un palco eccezionale con grandi tecnici, un'orchestra, è un'esperienza unica, molto televisiva, sì, senz'altro, sì. Quindi ha tutte le contraddizioni di quel contenitore, però... Adesso però live portate in giro il disco, bello, sì, con amici, con ospiti, con tante cose, e... è la parte, per voi, che parte è del vostro lavoro, quello poi di portare in giro quello che avete fatto? È la parte degli autotrasportatori. Ah, quelli che si devono scarrozzare tutto. No, nel senso che si viaggia molto per quello. No, è una... Boh, sarebbe banale dire una parte bellissima, nel senso che poi alla fine, fondamentalmente, quando fai questo mestiere ci sono due parti principali. Una è la vita del criceto da studio e l'altra è la vita dell'autotrasportatore. Però, come dire, ognuna ha senso in funzione dell'altra. È molto bello quando, diciamo, per magia le cose funzionano e, come dire, ti arriva un feedback. Si capisce che il lavoro che hai svolto tocca qualcuno, e quindi quella è la parte in cui lo misuri dal vivo, in cui per una volta, per quella volta lì, esci, insomma, dalla fase schermi della vita, no? Sempre incollati davanti a un tablet. Poi, oddio, anche se poi ai tutti concerti... quanti stanno, però li vedi le facce, insomma. Sì, devo ma anche dire meno che un dal pochino, pubblico, cioè, nel senso, capisco, se vai a vedere Peter Gabriel, l'ho fatto, cioè, vedi tanti, però poi alla fine sì, ci sono quei due o tre momenti nel concerto magari in cui tutti tirano fuori tutti i telefonini, vedono, sì, sì. C'è più un'icona perché per in qualche l'artista modo, che impatto ha, perché tu dal pubblico vedi tutte le lucine dei telefonini e dici, ma perché non guardate il concerto? L'impatto è: state tranquilli, state facendo tutti la stessa foto. È vero. E anche fate un po' quello che volete. Nel senso, io quando ho sentito qualcuno dire no, però non fate le foto, eccesso di, cioè, la gente è libera di fare un po' quello che gli piace. Ma quella lucina dello smartphone è l'accendino 2.0. Sì, va benissimo. Cioè, e poi mi accorgo, appunto, ai concerti mi sembra di vedere questa cosa. Cioè, capisco, appunto, se vai nel grande palazzetto, eccetera, a vedere il gruppo della tua vita, probabilmente ti scapperà di più. Però in generale mi sembra che la gente abbia anche voglia più di godersela, almeno ai nostri concerti. Sì, vedi anche quella roba lì, e poi vedi anche tanta gente che invece ascolta tutto il concerto. E l'ultima cosa che dico è: se comprate il disco dei Perturbazioni, quello fisico, Le storie che ci raccontiamo, sappiate che è un casino ripiegare il booklet. Io adesso me lo sono fatto spiegare da loro, perché l'ho aperto e non riuscivo più a richiuderlo. È un origami, okay. Quindi, come tutti gli origami, io chiedo un po' di esercizio. Meno impazienti di me. Fate un po' più calma, che così poi riuscite a richiuderla. Guardare l'apertura per replicare la chiusura. Ma quanto sono bravi con le parole a raccontarci le storie. Le storie che ci raccontano in Perturbazione. Perturbazione, Le storie che ci raccontiamo. Come sono contente di avervi avuto al Sabato del Villaggio. Grazie, tornate. Grazie a te, grazie a voi, veramente. A presto. Scelta o una coincidenza, se sei come sei ed io insieme a te, la nostra fortuna dagli occhi bendati, i viaggi scaduti, gli amici perduti, le tue prospettive, le mie alternative. Servono più. Da qualche parte nel mondo di sicuro c'è una persona più adatta. Molto più. Quanto mi piacciono questi Perturbazioni, che sono fighi, che sono simpatici, che sono bravi. Il loro album è bellissimo, anche se, sentite, è un delirio. Io non sono capace di rimettere a posto questo booklet, che è il foglietto interno, è tipo origami. Vabbè, adesso ci riprovo, perché bisogna ricordarsi come è stato aperto, e così ci ricordiamo come dobbiamo chiuderlo. È già arrivato accanto a me Daniele Bellasio. Dai, puoi anche salutare, anche se siamo ancora nel Sabato del Villaggio. Ciao. Eccolo qua, avete sentito la sua voce, quindi siamo pronti. Ciao. Per dare, mamma mia, che voce sexy, siamo pronti per dare. Ma quanti messaggi che attivi. E vedrai adesso quanti messaggi arrivano in RadioTube. Allora, linea al giornale radio delle 17, perché vedo già Maria Piera Ceci che in questo istante sta entrando in studio con la scaletta, con il copione, quindi linea al giornale radio delle 17, poi saremo insieme per salutare il Sabato del Villaggio e dare il benvenuto a RadioTube.